giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Appena chiusa una campagna elettorale, se ne apre già quasi un'altra. I partiti fanno le prime mosse in vista delle amministrative della prossima primavera. Ci sono le regionali, si voterà per il comune di Udine. Nel centrodestra il presidente Fedriga ha già annunciato che cercherà il bis. Nell'altro campo, gli approcci del PD verso 5 Stelle e centristi. Al voto anche 19 comuni, Udine e Sacile, gli unici sopra i 15.000 abitanti. Ieri, prima candidatura ufficiale per la guida del capoluogo friulano, è quella di Stefano Salmè di Io Amo Udine Liberi Elettori. Cronaca, si indaga sull'auto lasciata ferma sui binari della ferrovia alle porte di Udine, che ieri ha provocato un incidente con un treno regionale in arrivo da Trieste. L'auto era vuota, introvabile il proprietario, un cittadino tunisino residente in città. Il meglio delle eccellenze enogastronomiche della regione in mostra la Borsa del Turismo di Genova. Ad Aprilia Marittima invece in vetrina 300 barche usate, in corso Nautilia, visitatori e potenziali acquirenti da tutto il nord Italia e dai paesi vicini. A Gorizia ieri i premi alla solidarietà, riconoscimenti ai campioni della dedizione agli altri in tanti settori, dallo sport all'inserimento lavorativo, al volontariato. Padrone di casa Mario Brancati, incrollabile guida della consulta regionale dei disabili. Il calcio, una bella partita nonostante lo 0-0, quella disputata all'Olimpico fra Udinese e Lazio, un punto per ciascuno che consolida le posizioni di vertice di entrambe le squadre. In Serie C sprofonda la Triestina sotto il 3-0 subito al Rocco dall'Albino Leffe. È stato questo l'esordio in panchina di mister Pavanel. Stasera il Pordenone in campo a Mantova. Basket, vittoria per l'Allu al West Udine nel campionato di A2. A Chiusi, i bianconeri si sono imposti 86-71 in una partita praticamente mai in discussione. Lunedì 17 ottobre 2022, sono le 7:20:10. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni con voi stamattina Andrea Saule e Antonio Cagliazza. Vediamo com'è la situazione meteorologica. Il cielo è in prevalenza sereno con qualche locale foschia. Le temperature registrate alle 7. A Trieste 14 gradi, il mare è calmo, ha una temperatura di 21 gradi. A Udine 10, a Gorizia 10,5, a Pordenone 10,5, a Tolmezzo 11, Forni di Sopra 9, Piancavallo 6,5, Tarvisio 5, Sappada 4,5, sul Monte Lussaries, Monte Zoncolan 8,5, a Lignano 15, a Grado 14 e qui la temperatura del mare di 20 gradi. Queste invece le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per oggi: tempo stabile con cielo in genere poco nuvoloso, possibile qualche nebbia di notte al mattino sulla bassa pianura e sulla fascia lagunare. I partiti alle grandi manovre, non è già campagna elettorale ma poco ci manca. In primavera da noi si voterà per il rinnovo dell'amministrazione regionale e anche per l'elezione di 19 sindaci, tra cui quelli di Udine e Sacile, gli unici due comuni sopra i 15.000 abitanti. Per le regionali nel centrodestra apparentemente i giochi sembrano fatti, il presidente Fedriga punta a una riconferma e dovrebbe correre con una lista tutta sua. Situazione in divenire nelle opposizioni, il PD lancia l'invito al dialogo a 5 Stelle e Terzo Polo, che però, almeno per ora, restano tiepidi. Per le regionali della prossima primavera il quadro è ancora nebuloso, specie nelle opposizioni. Le trattative si incroceranno con dinamiche nazionali e con le comunali di Udine. Dopo le politiche, il governatore Massimiliano Fedriga ha annunciato la sua ricandidatura nella presentazione di una propria lista sulla falsa riga dell'omologo veneto Luca Zaia. Nella lista confluisce Progetto FVG, che però continuerà a rimanere autonomo alle amministrative, chiarisce il fondatore Sergio Bini. Potrebbero esserci anche candidati di Autonomia Responsabile di Renzo Tondo. Completano la coalizione Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Tra le opposizioni c'è la consapevolezza di giocare una partita difficile contro il presidente uscente. Senza ballottaggio, presentarsi uniti conviene. Proprio per questo si parla tanto di campo largo. Il Partito Democratico apre sia al Movimento 5 Stelle sia al Terzo Polo, due componenti che difficilmente potranno stare insieme per veti reciproci. Per i pentastellati gestirà questa fase Mauro Capozzella. Due i suoi interlocutori preferiti, Francesco Russo del PD e Massimo Morituzzo di Patto per l'Autonomia, il quale sarebbe un candidato presidente gradito in ambienti PD. Piace anche Isabella De Monti di Azione, ma si dice contraria all'idea di campo largo come sommatoria di liste. Ettore Rosato di Italia Viva tiene le carte coperte. Le elezioni sono tra 6 mesi. Quando sarà il momento faremo le nostre scelte, dice. Nell'area progressista ci dovrebbero essere anche l'Alleanza Verdi-Sinistra e i cittadini, mentre Più Europa non si presentò alle ultime regionali. Occhio infine alle forze vicine al mondo no Green Pass come Italexit e Vita, che, risultati delle politiche alla mano, potrebbero entrare in consiglio regionale. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Ci si comincia a muovere anche per le comunali di Udine, molto sotto traccia, ma intanto c'è la prima candidatura ufficiale, quella di Stefano Salmè, esponente della destra friulana, che si presenta con la civica Liberi Elettori Io Amo Udine. In una sala conferenza affollata, la lista civica Io Amo Udine Liberi Elettori ha presentato il suo candidato sindaco in vista delle elezioni comunali che si terranno nel capoluogo friulano. E Stefano Salmè, giornalista pubblicista già candidato alle scorse amministrative, che si è presentato insieme alla sua squadra elencando alcuni punti del suo programma. Innanzitutto noi abbiamo messo il punto del sindaco come primo garante della salute dei cittadini. Noi siamo nati dalla pandemia, la nostra lista civica Liberi Elettori è nata dalle conseguenze economiche e sociali legate alla pandemia e vogliamo dare delle risposte. Poi abbiamo un altro problema, che abbiamo ormai un mondo dominato sempre più da giganti economici e vogliamo dare una risposta coerente con dei buoni spesa legati alla natalità, 10.000 euro per ogni figlio nato a Udine, che potranno essere spesi solo in città e solo nelle piccole aziende che hanno la sede legale in città. In merito ad eventuali alleanze, la lista si pone come alternativa ai partiti, sia di destra che di sinistra. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Interventi in favore delle persone con disabilità e il relativo riordino dei servizi sociosanitari all'attenzione stamattina della terza commissione del Consiglio regionale. L'iter è giunto alla fase di esame e di approvazione del testo uscito dalla Giunta e ha già registrato gli spunti arrivati dai portatori di interesse oltre che da alcuni consiglieri delle commissioni. In commissione saranno anche illustrate due interrogazioni, quella di Walter Zalucar del gruppo Misto sull'inadeguatezza dei posti letto ospedalieri a Trieste e quella di Nicola Conficoni del PD sulle prospettive del reparto di pneumologia Pordenone. E con una nota ieri il consigliere regionale Walter Zalucar del gruppo Misto ha denunciato un episodio dai contorni ancora poco chiari. Mi è stato segnalato che a Trieste un signore di 103 anni, colto la malora nella sua abitazione, ha dovuto attendere 3 ore l'arrivo dell'autoambulanza, scrive il politico. Il fatto, secondo quanto afferma il consigliere, sarebbe avvenuto nel pomeriggio dell'8 settembre. Zalucar scrive di 3 chiamate effettuate dal figlio dell'ultracentenario, nonché la situazione in cui versava l'anziano. Questo è successo a Trieste, in zona università, a 3 chilometri dall'ospedale maggiore. Attendere 3 ore per avere l'ambulanza per un signore di 103 anni, palesemente bisognoso di soccorso urgente, sembra veramente troppo, dice Zalucar. La cronaca, lo scontro di ieri mattina alla periferia di Udine tra un treno e una vettura ferma sui binari, più che un incidente è un giallo. Non si sa come mai l'auto fosse lì e non si trova il suo proprietario, un tunisino residente in città. Un incidente che a prima vista aveva fatto temere il peggio. Intorno alle 7, per causa in corso di accertamento da parte degli inquirenti, una vettura di proprietà di un tunisino residente a Udine, non ancora rintracciato, è stata travolta dal treno regionale che stava arrivando da Trieste nel capoluogo friulano. Il macchinista ha subito azionato il freno, ma non è riuscito ad evitare l'impatto molto violento che ha trascinato l'auto per circa 500 metri. I vigili del fuoco hanno usato il divaricatore e le cesoie idrauliche per sincerarsi che all'interno della vettura non ci fossero persone. Resta da chiarire per quale motivo la macchina fosse stata lasciata sui binari con l'anteriore rivolta al treno. Sul luogo, oltre ai vigili del fuoco di Udine, personale sanitario, gli agenti della polizia ferroviaria e della questura di Udine. Al momento dell'impatto, il treno era occupato da 9 viaggiatori che, dopo i primi accertamenti, sono stati fatti scendere e accompagnati dal capotreno all'altezza del passaggio a livello, dove sono stati prelevati da dei taxi per essere accompagnati in stazione a Udine. Dopo i rilievi della polizia ferroviaria e dei tecnici di rete ferroviaria, è tornato regolare poco prima delle 11 il traffico ferroviario sulla tratta Trieste-Udine, interrotto in mattinata a causa dell'incidente all'altezza del passaggio a livello di Via dei Prati, nella zona sud del capoluogo friulano. I treni regionali hanno subito ritardi, limitazioni di percorso e alcuni sono stati instradati tra Udine e Monfalcone sul percorso alternativo via Cervignano. Attivato anche il servizio sostitutivo con bus tra Udine e Gorizia Centrale per i treni regionali. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Una quindicina le imprese dei settori turismo e agroalimentare che oggi e domani a Genova rappresentano il Friuli Venezia Giulia, la Borsa Internazionale del Turismo Culturale, alla concomitante Mirabilia Food and Drink. Tra le camere di commercio coinvolte, quella di Pordenone Udine, presente a Genova al fianco della delegazione regionale guidata dal presidente Giovanni Da Pozzo. Questo pomeriggio sarà presentato ufficialmente il progetto Opus Loci, che proprio la camera di Pordenone Udine ha avviato, riunendo una ventina di aziende e produttrici di eccellenze friulane per ciascuno dei 5 siti UNESCO: Aquileia, Cividale, Palmanova, Dolomiti Friulane e Paludi Livenza. Con Opus Loci per ciascun sito sono stati realizzati speciali percorsi da fare in bici o camminando che toccano non solo le bellezze storico-culturali ma anche le aziende coinvolte. Il mondo del turismo nautico si è ritrovato invece a Nautilia, la vetrina dell'usato da diporto che si tiene ad Aprilia Marittima, unico punto d'incontro di questo settore nell'Alto Adriatico. È rimasta l'unica grande vetrina dell'usato nautico in una posizione strategica dell'Alto Adriatico. Alla 35esima edizione, Nautilia espone circa 300 barche, l'80% a motore e il 20% a vela, natanti dai 6 agli 8 metri, con unità media degli scafi dai 15 ai 25 anni. Un mercato, quello delle barche usate, che sta attraversando un momento d'oro per le richieste dopo il tunnel buio del Covid, favorito dai ritardi della consegna di nuove imbarcazioni per esuberanza di ordini. Buoni gli affari per gli espositori nelle prime giornate della kermesse lignanese, con potenziali clienti provenienti da tutto il nord Italia, oltre che da Germania, Austria e Slovenia. Peter Markovic, venditore di barche. Io in 30 anni di vendita qui in Italia ho mai avuto la situazione dove abbiamo più richieste che barche che possiamo offrire in vendita. E la clientela osserva, valuta e testa quanto esposto nei 50.000 metri quadrati dei cantieri di Aprilia Marittima. Sto cercando una barca a vela piccola, diciamo agile. Prezzo? Prezzo abbordabile per chi se la può permettere come me. Stiamo cercando di vendere la nostra barca per comprare qualcosa di un pochino più grande, un po' più spazioso per la famiglia. Un'occasione anche per conoscere le nuove tecnologie elettroniche della nautica, come questa antenna esposta per la prima volta in Italia. Mauro Marco, esperto del settore. Un'antenna con 5G, con la possibilità di inserire due SIM e quindi avere internet anche fino a 25 miglia dalla costa. Un'esposizione che nel futuro darà il suo contributo anche alla sostenibilità ambientale. Nicola Toso, direttore di Nautilia. A breve saremo il primo cantiere in Italia ad avere il primo travelift completamente full electric, un travelift che ha un sollevatore da 40 tonnellate e ci teniamo molto alla parte dell'ecosostenibilità. Aprilia Marittima, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il mondo della solidarietà celebrato a Gorizia e i suoi protagonisti e i suoi campioni, non solo dello sport ma anche di conoscenza, innovazione tecnologica, inserimento lavorativo e volontariato. Nella sede dell'Unione Ginnastica Goriziana sono stati consegnati i 20 riconoscimenti del Premio Regionale della Solidarietà. La tenacia incrollabile del presidente Mario Brancati è forse il segno più immediato ed efficace per comprendere lo spirito della consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, coadiuvata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Fondazione Carigo. Momento di commozione per la targa a Marina della Torre, che ha introdotto i giovani alla cura dei gatti di strada a Trieste. Medaglia d'oro al presidente dell'AIAS di Udine, Elvio Sgrazzutti. Famiglie con disabilità vivono una situazione molto pesante e di sofferenza e molte volte da sole non ce la fanno. Mi sono sempre impegnato affinché sappiano che c'è al loro sostegno il mondo del volontariato. Riconoscimento all'azienda Agrimor di Pordenone per l'inserimento lavorativo, medaglia d'oro a Eleonora Oddo, presidente dell'Associazione Mutilati e Invalidi Civili di Gorizia. La mia associazione rappresenta l'invalidità da 0 a 100 anni. Noi curiamo i bambini con le malattie rare e l'autismo, la vita si è allungata, abbiamo anche problemi grossi con gli anziani. Innovazione tecnologica per i non udenti dalla start-up triestina EvoSeed, insegnamento e sensibilizzazione sensibilità letteraria a Pordenone con Daniela Dose. Con il progetto Matilda mi racconti una storia abbiamo visto crescere amicizia tra bambini disabili, autistici e i loro coetanei e i genitori. Gioco e sport per tutti con Atlas Football Academy di Sagrado e medaglia d'oro a Rosanna Brunetti, atleta e pioniera dello sport per disabili gravi. Oggi le discipline sportive sono amplissime, si possono addirittura fare 15 metri di nuoto. Mi duole il cuore che la piscina terapeutica di Trieste sia ancora chiusa dopo 3 anni. Gorizia, Maurizio Mervar, TGR Friuli, Venezia Giulia. Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno, alle 20 nella sala consiliare di Povoletto, iniziativa per tenere alta l'attenzione su questo tema. Interverrà la presidente di Andos Udine, Mariangela Fantin, relatrice della serata, la dottoressa Carla Cedolini, responsabile di chirurgia senologica di Udine. Alcuni spettacoli al Verdi di Pordenone. Va in scena una delle tragedie che maggiormente hanno scosso le nostre coscienze, la strage di Utøya. Era il 22 luglio del 2011 quando sulla piccola isola norvegese approda Anders Behring Breivik, un folle neonazista che uccide 69 ragazzi ospiti in un campeggio per giovani laboristi. Utøya apre stasera il cartellone Nuove scritture, la sezione ideata per attirare la curiosità dello spettatore verso formati e temi del presente. La regia è firmata da Serena Sinigaglia. Sul palcoscenico saliranno 2 attori, Mattia Fabris e Arianna Scomegna, che daranno vita ai vari personaggi. Il sipario si alza alle 20.30. Alle 17.30 al caffè Licinio sarà presentato il saggio Il silenzio sugli innocenti, che l'autore Luca Mariani, presente all'incontro, ha dedicato alla strage. Secondo appuntamento a Gorizia con Alienazioni, con una serata dedicata a 3 autori legati alla Beat Generation: Jack Kerouac, Allen Ginsberg e William Burroughs. 3 grandi personalità che hanno visto le loro vite segnate da momenti di rottura, vite per così dire al limite. Sul palco le voci di Ottavia Bianchi, Marius Bizau e Giulia Nervi e l'accompagnamento alla chitarra di Giacomo Ronconi. Alienazioni è un festival multidisciplinare che esplora gli aspetti della follia e del disagio, declinati in molte forme attraverso incontri, dibattiti ed eventi in prosa e musica. L'appuntamento alle 20.45 al Kinemax di Gorizia. 7.35, la pagina sportiva. Un'ottima Udinese non riesce a superare la Lazio né in campo né in classifica, ma continua la striscia senza sconfitte. All'Olimpico finisce 0-0, ma non mancano le occasioni sia da parte che dall'altra. Molto lo spazio a disposizione della squadra di Sottil in una partita giocata prevalentemente in velocità. Al 12° traversa per Samardžić, nella ripresa invece palo per Deulofeu. Molto bene anche il portiere Silvestri, chiamato in causa più volte e sempre presente sulle iniziative dei padroni di casa. In classifica Lazio Udinese vengono superate dal Milan al 3° posto, ma sentiamo la voce del tecnico friulano Sottil al termine dell'incontro. Stiamo lavorando molto sulla gestione mentale, cioè sull'essere sempre intensi fisicamente. Questa squadra ha una condizione fisica molto importante in questo momento, già da un po' che ce l'ha. Siamo cresciuti tanto e secondo me questa squadra ha ancora margini di miglioramento, perché poi gioca anche bene a calcio, perché ci va poi la qualità per creare le situazioni da gol, e anche oggi noi ne abbiamo create tante. Prossimo appuntamento per l'Udinese in casa domenica alle 12.30 contro il Torino. In Serie C, brutta sconfitta interna della Triestina che perde 3-0 al Rocco contro Albino Leffe nel giorno del ritorno in panchina di Massimo Pavanel. Poco da salvare per gli alabardati, con i seriani che segnano 2 volte sugli sviluppi di calcio da fermo, con Milesi al 38° e con Marconi al 67°. Lo stesso attaccante che si era fatto parare un rigore da Pizarri sull'1-0 segna il 3-0 in contropiede, con la difesa triestina completamente sguarnita. Da Pavanel arrivano le scuse ai tifosi e la promessa di riscatto per il turno infrasettimanale di mercoledì, sempre in casa contro il Padova. Sentiamolo. 40 minuti fatti bene fino al gol loro. Dopo, in questo momento la squadra è un po' fragile psicologicamente, quindi l'episodio negativo non riesce a risollevarsi. Abbiamo cercato in qualche maniera anche tatticamente di provare a fare un secondo tempo. Nelle situazioni create non si è stati puntuali in gol, non l'abbiamo riaperta. Il punteggio è pesante, quindi questo solo da chiedere scusa per il risultato alla città, alla tifoseria, e mettersi sotto e lavorare più. Abbiamo una partita breve e già una possibilità che ci si può rimettere in pista subito contro un'ottima squadra, una grande squadra, quindi anche a livello di stimolo deve essere un punto di forza per ripartire su questi bisogni. Sempre per la Serie C, in campo invece oggi la capolista Pordenone che ritrova Deli, Aieti e Benedetti nella trasferta di Mantova. Si gioca alle 20.30 diretta su Rai Sport. Sentiamo le parole di mister Di Carlo alla vigilia. Obiettivo: trovare continuità di gioco oltre che di risultati. Dare continuità sia di prestazioni di gioco ma anche di risultati contro un Mantova che ho visto che nelle partite che giocano un buon calcio, e quindi vedremo anche una bella partita. L'importante è che alla fine saremo noi a spuntarla per i tre punti. È andata abbastanza bene, abbiamo recuperato Benedetti, Aieti e Deli, che sono tre che erano fuori, e quindi ci consente di avere più alternative anche in vista delle tre partite, e quindi bene, sono contento, sono molto fiducioso. Noi dobbiamo dare, ripeto, continuità alle nostre prestazioni, e domani voglio vedere questa determinazione in campo. L'emozione sarà sicuramente all'inizio, quando arriverò in uno spogliatoio, fuori, quando si esce, quando si guarda la curva, tutte quelle cose che sono 4 anni passati insieme con risultati veramente importanti. Poi all'inizio della gara tutto finisce, il Pordenone deve vincere la partita, il Mantova dovrà vincere la partita, e quindi da lì in poi saremo avversari, come giusto che sia, però sempre con rispetto nei confronti del Mantova. Nel girone C di Serie D di calcio, 2 pareggi per le regionali, 1-1 in casa per il Chiarlens Muzzane contro il Villafranca con reti di Siku, stesso punteggio per il Tor Viscosa in trasferta a Legnago. In classifica Chiarlens 7° a 10 punti, Tor Viscosa in zona play-out a 6 punti. Il basket, agile vittoria per l'Old Wild West Udine nel campionato di Serie A2. A Chiusi i bianconeri si impongono con il punteggio di 71-86 in una partita praticamente mai in discussione, vista la differenza dei valori in campo, nonostante la squadra di Bonicioli giocasse senza Brisco. Partita sempre in controllo fin dalla palla 2, con i due playmaker Sherrill e Mussini a fare la differenza. 19 punti per l'americano, impreziositi da 6 assist, mentre l'emiliano ne ha segnati 20 con 5 canestri da 3 punti messi a segno su 8 tentativi. Buona anche la prestazione di Antonutti. Apo a punteggio pieno dopo 3 giornate, prossimo impegno con 100 in casa, ma sentiamo le parole dell'allenatore Matteo Bonicioli a fine partita. Ci aspettavamo esattamente questo tipo di partita, che è la fotocopia di quella che i nostri avversari di Chiusi hanno giocato domenica scorsa contro Cento, sempre sotto ma senza mai arrendersi. E quindi il merito della mia squadra questa sera è stata quella di, a fronte di alti e bassi offensivi, a tenere sempre la concentrazione e a non farsi mai sbandare dai loro recuperi quando si tiravano su, se devo fare un paragone, diciamo, boxistico. Dopo quello che sembrava essere il pugno di knockout si tiravano su, un altro pugno di knockout si tiravano su. Sono stati veramente di una energia e di una bravura straordinaria, tenendo conto che tra noi e loro c'è oggettivamente, e non credo di offendere nessuno, una certa differenza di valore tecnico. Sono molto contento per la partita di Mussini, che ci ha dato una mano con dei canestri letali per la loro difesa. Ancora basket, ricordiamo gli altri risultati delle squadre regionali. Sabato sera in A1 Trieste ha perso in casa con Venezia 78-95, in A2 Cividale aveva invece battuto Ravenna 80-70. In Serie B Impresa per Monfalcone che vince 64-73 a Capodorlando con 5 giocatori in doppia cifra e l'ex Trieste Prandin miglior marcatore. In A2 Femminile 2 vittorie per le due regionali. L'Apu Women vince a Roni 69-68 con 19 punti di Ronchi, Futurosa Trieste facile a Vicenza 90-65 con 24 di Miccoli. Niente da fare per il Tinet Prata di Pordenone nella seconda giornata del torneo di volley A2 maschile. A Bergamo arriva una netta sconfitta per 3-1. Questi parziali 25-20, 20-25, 25-23, 25-20. Ancora convincente la prestazione di Catalan per i friulani. Pallanuoto femminile, nella 4ª partita del girone di Coppa Italia di Serie A1 le Orchette Alabardate sono state battute da SIS Roma per 6-15. La Pallanuoto Trieste è comunque qualificata alla Final Six come seconda del gruppo A. Il calcio femminile in Serie B tra Tavagnacco e Chievo finisce 1-1 a Verona. Friulane sotto al 38esimo del primo tempo con rete di Dalla Giacoma, pari firmato su rigore da Diaz Ferrer al 33esimo della ripresa. Le ragazze di Recenti muovono la classifica dopo 2 sconfitte di fila e salgono a quota 4. Alle 10:30 al cimitero di Gorizia, omaggio al ciclista goriziano Giorgio Ursi, capace di conquistare l'argento alle Olimpiadi di Tokyo del 1964. Al Kulturni Dom di Gorizia invece è allestita fino al 30 ottobre la mostra documentaristica sul campione scomparso a soli 40 anni nel 1982. La rassegna stampa, sulla prima del Piccolo di Trieste, una bella foto orizzontale degli scaffali dell'antica libreria Saba, l'appello per salvarla. All'interno un articolo su un'iniziativa del Partito Democratico in Consiglio Comunale per salvaguardare questo punto di riferimento cittadino della cultura. La vera apertura del giornale, e torniamo in prima, è sulle energie alternative. Nella Venezia Giulia è partita la corsa agli impianti solari, impennata di richieste per pannelli fotovoltaici e termici, risparmi in bolletta fino al 70%. Poi, fra i richiami, l'unione sprofonda, esordio da incubo per Mr. Pavanel. Le pagine 2 e 3 dunque sul boom di domande di impianti fotovoltaici, quindi interessanti sviluppi sulla vicenda Varzila. C'è l'ipotesi di costruire a Trieste 20 generatori per centrali elettriche turche. L'apertura delle pagine di Trieste, il silos torna a popolarsi dentro la città fantasma, fra giacigli, fango e rifiuti, i migranti continuano a rifugiarsi sotto le volte dell'edificio abbandonato. L'apertura del paginone culturale, domani alla Festa del Cinema di Roma, la presentazione del docufilm Il sogno di una cosa di Leonardo Ferrari Carissimi su Pierpaolo Pasolini, in cui l'amico Zigaina racconta la vera morte dello scrittore. L'articolo è di Mario Brandolin. Nel Messaggero Veneto edizione friulana si parte dall'edilizia, oltre 1 miliardo di bonus. Dal Friuli Venezia Giulia inviate 7.500 pratiche per ottenere il 110%. Conclusi i lavori per 739 milioni, la maggior parte riguarda case unifamiliari e indipendenti. Ma anche l'aumento dei costi dell'energia, la corsa al rialzo di legno e pellet, bancali e sacchi costano il triplo. In testa la fotonotizia sulla bella Udinese di Sottil, un punto a Roma per restare in alto. All'interno il tema della salute, il sistema sanitario inattivo, via libera ai premi per i dipendenti, il bilancio 2021 delle tre aziende chiude con un avanzo di 690.000 euro, costi energetici sotto osservazione. Poi nella cronaca, auto lasciata sui binari con i fari accesi, urtata dal treno, dentro non c'era nessuno, abbiamo sentito, incidente in via Baldasseria vicino al passaggio a livello in via dei Prati, la polizia ferroviaria cerca il proprietario dell'auto. A passo l'uomo in autostrada, poi sperona l'auto della polizia, un'altra delle notizie. Edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo. In prima, foto orizzontale della piazza goriziana, simbolo della caduta del confine fra Italia e Slovenia. Piazza Transalpina cambia volto. E questa all'interno anche l'apertura delle pagine del capoluogo. E qui c'è la foto del rendering di come potrebbe diventare. Una corsa a 5 per rifare Piazza Transalpina. Le procedure per l'affidamento restano riservate. Lavori da finire entro il 2024. Sul tema, un'intervista a Vittorio Sgarbi. Mostre con concerti di livello che attirino la gente, non si perda più tempo, il rischio è di venir oscurati, dice. Cronaca, furti nelle case e in agriturismo, spariti soldi e miele a Lucinicco. I ladri sono entrati in 4 abitazioni dopo aver fatto un buco sulla finestra, svaligiato il locale Grion, appena riaperto, colpi messi a segno anche a Medea. Apertura ambientalista per le pagine del Monfalconese, ripopolato il fondo marino del Golfo. Dopo un paio d'anni, la piantumazione sperimentale delle fanerogame si è rivelata efficace. Nel Gazzettino, nell'edizione destra tagliamento, la fotonotizia sulla macchina della polizia speronata in autostrada da un'auto. Polizia speronata, panico in autostrada, mezz'ora di paura tra Pordenone e Godega, una 26enne bulgara a 30 all'ora paralizza la circolazione. Sull'1-8 un'ora di protesta con frasi sconclusionate. La siccità non molla, le falde all'asciutto e bacini sempre vuoti nonostante le piogge che ci sono state. I livelli sottoterra restano i minimi storici. La sanità, esami fuori regione, il Friuli occidentale resta la maglia nera, mentre la trazione a livello regionale supera la fuga. Pordenonese, buco nero. Riccardi, serve accreditare più privati. Mancano medici di base, il decreto urgente fa flop, non ci sono giovani pronti, dice il quotidiano, sempre molto attento ai temi della sanità. Una curiosità dai campionati minori di calcio, il Flumignano non rientra in campo, esplode il caso, la squadra di seconda categoria senza portiere di ruolo era sotto 12-0 il primo tempo. Ancora spettacoli, concerto per fortepiano questo pomeriggio a Palazzo Gopcevic a Trieste alle 17.30 nell'ambito dei Lunedì dello Schmidl. Wunderkammer Festival propone L'alba del notturno, ovvero il testamento spirituale di John Field, il primo compositore a pubblicare nel 1700 opere pianistiche dal titolo Notturni. La riproposizione filologica al fortepiano nelle sonorità argentee e delicate di questo strumento è affidata a Rosangela Flotta. La magia del cinema del dopoguerra viene raccontata dal documentario Nuovo Cinema Buie del regista Alessio Bozzer. La produzione di Video Est sarà presentata al pubblico a Trieste al cinema Ariston alle 20.30. In sala ci sarà anche il regista. Alessio Bozzer, alcuni fa lei ha portato sul grande schermo la Trieste, mercato dei jeans per l'intero Europa dell'Est degli anni 70, con grande successo. E ora riavvolge il nastro del passato e ci porta alla Buie del dopoguerra. Come mai si è interessato proprio al cinema di Buie in Istria? L'idea è nata per caso, come ogni tanto capita. Io chiacchieravo proprio 5 anni fa a questo punto con una signora a Trieste, Anna Maria, e questa signora, bevendo un caffè, mi ha raccontato questa storia di quando lei era una bambina e si ricorda che Tito è venuto a visitare il cinema dove suo padre lavorava e lei si è seduta sulle sue ginocchia quel giorno. E io mi sono subito visualizzato questa immagine perché mi sembrava un'immagine da film. E da quel racconto di 5 anni fa poi ho cominciato a fare le ricerche, di andare a Buie, ho scoperto che quel cinema esiste, ho scoperto che ci sono moltissimi ricordi e storie legati a quel cinema e così è nato il film. Tullio Kesic spesso raccontava proprio di come il cinema nel dopoguerra aveva appassionato i triestini, tanto che questo era uno dei motivi per i quali a Trieste è un po' la culla della critica cinematografica in Italia. E da alcune interviste che lei fa in questo documentario c'è proprio questa passione, no? Questa magia per le storie che vengono raccontate. Io credo che nascosto dietro alle vicende storiche che ci sono nel film, in realtà io volevo proprio fare un film sulla magia del cinema. È curioso che proprio in questi giorni esce un trailer dell'ultimo film di Steven Spielberg e anche questo è un film sulla magia del cinema. Quindi secondo me, pur essendo queste sale dei luoghi che ormai, ahimè, tendono a essere sempre più vuoti, io continuo a pensare che sono degli spazi che continuano a essere magici. Nada Choc TGR, Friuli Venezia Giulia. La storia della nostra regione è inquadrata nel più ampio contesto internazionale. È stato questo il tema proposto ai giovani che hanno partecipato alla 5ª edizione del premio Fondazione Friuli Scuole. Alle 17.45 al Visionario di Udine la cerimonia di consegna dei riconoscimenti e solo all'ultimo momento saranno svelati i nomi dei premiati fra ragazzi delle superiori e delle medie. Due le categorie, una per elaborati di ricerca storica e una per lavori artistici, come ad esempio una foto, un video o un servizio fotografico. Da oggi a mercoledì 2 novembre il Civico Museo Rivoltella di Trieste resterà temporaneamente chiuso al pubblico per consentire i lavori di allestimento della programmata mostra sulla scultura nelle raccolte nel Museo Rivoltella da Canova al XXI secolo. Nello stesso periodo resterà invece regolarmente aperta al pubblico la Biblioteca Molesi. Miti, leggende, cosmogonie, viaggio nel realismo magico di Gabriel García Márquez. Questo è il titolo dello spettacolo di Hangar Teatri a Trieste stasera alle 19. Alle 18 la libreria di Piazza Tergesteo a Trieste, Barbara Marengo presenta a Levante o giù di lì storie vecchie e nuove di una viaggiatrice. Dialogano con l'autrice Grigor Arbore ed Enzo Santese. Il libro è un lungo viaggio è un viaggio lungo le antiche rotte del Mediterraneo, un itinerario che insegue storia, arte e cultura, vite di persone che hanno vissuto nel corso dei millenni sulle rive del Mare Nostrum. Alle 17.30 al Caffè San Marco a Trieste, Daria Collavini presenta il suo libro L'Ora Blu, storia ambientata nel mondo della danza e della fotografia d'arte, a dialogare con l'autrice Gioia Meloni. Alle 19 alla Biblioteca Antica Guarneriana a San Daniele del Friuli, presentazione del libro di Romano Vecchiet, Quel lento viaggio in collina, storia del tram Udine-Fagagna-San Daniele. Parte oggi a Tavagnacco il corso pratico di lingua friulana organizzato dalla Società Filologica Friulana in collaborazione col Comune di Tavagnacco. Si tratta di un'occasione, di un'opportunità per approfondire la conoscenza del friulano. Da oggi a mercoledì 19 negli ambienti del Conservatorio Musica Trieste Tartini di Trieste si terrà il 26esimo premio pianistico internazionale Stefano Marizza, riservato a pianisti di ogni nazionalità che abbiano un'età inferiore ai 28 anni. E adesso uno sguardo ai programmi radiofonici della nostra sede. Poco dopo le 11 la trasmissione in friulano. Alle 11.20 circa la prima puntata di Tra le parole e il cuore, un programma di e con Pino Roveredo e Maddalena Lubini. Protagonista della puntata di oggi, Mario Vatta. A mezzogiorno alla voce di Calliope il pianista e compositore Paolo Chiarandini. A seguire la rubrica Anche i banchieri hanno un'anima. Sono le 7:53 minuti 21 secondi. L'assistenza tecnica è stata assicurata da Eugenio Giuffrida e Giampaolo Zucchi. Ha collaborato in redazione Manuel Bussani. Per il momento noi ci fermiamo qui. Prossimi appuntamenti con la nostra informazione. Pochi minuti dopo le 11 su questa frequenza arriva il flash e quindi l'edizione delle 12.30. Seguite anche gli aggiornamenti sui profili Twitter, Facebook e Telegram della redazione e alla pagina web all'indirizzo rainews.it/tgr/fvg. Grazie della cortese attenzione da Andrea Saule e da Antonio Caiazza. Buona giornata e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.